Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Prendere un caffè a quest'ora potrebbe non farvi dormire, ma la notizia che riguarda il caffè da cui cominceremo, questa probabilmente non vi farà dormire. Benvenuti e benvenute a Möbius, adesso i titoli e poi iniziamo. I cambiamenti climatici minacciano anche il caffè. Entro la fine del secolo potremmo dover rinunciare alla varietà 100% arabica. Quasi 50 anni fa, l'alluvione di Firenze. Anche allora si parlò di mancata cura dei territori. Cerchiamo di capire come stanno le cose, accompagnati da Marco Paolini, che ai fatti di Firenze ha dedicato una delle sue orazioni. Dove si trova esattamente la tomba di Alessandro Magno? Da uno studio italiano di archeoastronomia sono emerse nuove importanti indicazioni sull'esatta collocazione. Il cincillà Mazinga e il coniglio Pierino sono i protagonisti della nostra rubrica La clinica degli animali. Un brevetto tutto italiano, un inchiostro speciale per produrre circuiti elettrici con una stampante. Chiara, ciao. Ciao Federico. Alberto, ciao. Ciao Alberto Federico. Agliotti, a te introdurre questo scenario gravissimo che si sta delineando. Un scenario devastante. Sul fronte sì. Caffè. Non scherziamoci, è grave sta cosa. È grave perché entro, insomma, la fine del secolo potremmo dover rinunciare alla varietà arabica di caffè, che è una delle due varietà sulle quali si basano le miscele che beviamo. Ed è quella in assoluto più pregiata. Ed è la più pregiata. Insomma, il caffè è buono se c'è l'arabica. Sì, sì, sì, sì. Porca. E se è 100% arabica è il top, il non plus ultra, ecco. E secondo uno studio pubblicato di recente sulla rivista PLOS ONE, a causa dei cambiamenti climatici, del riscaldamento globale, questa varietà di caffè potrebbe esaurirsi appunto entro il 2080, giù di lì. Perché la specie madre, diciamo, di questa varietà è in Etiopia e purtroppo per problemi appunto geopolitici e anche climatici, ora ci faremo raccontare, purtroppo non ci si può lavorare e quindi rischia l'estinzione. Ma adesso insomma gli esperti faranno che qualcosa. Abbiamo qua Furio Suggi Liverani, che è presidente del Trieste Coffee Cluster, nonché direttore ricerca e sviluppo di Illy Caffè, che quindi è un esperto di caffè, in particolare di arabica. Buonasera Liverani. Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, cosa ci dice di questo scenario che si va delineando per il futuro dell'arabica? Dica che non è vero, va. Posso dire che non è vero, attenzione, questo scenario si basa fondamentalmente su simulazioni e su modelli matematici. Certo. Però di questi tempi possiamo cominciare a fidarci dei modelli matematici. Eh sì. Quello che i ricercatori ci ricordano in questo articolo è che, tenendo conto di quelli che sono i modelli climatologici che proiettano un aumento di temperatura da 1,8 a 4 gradi verso la fine del secolo, quindi 2100, tenendo conto di questi dati e di dati climatologici locali, quello che è il più importante giacimento del caffè arabica, e cioè un parco che sta in Etiopia, nel plateau di Boma, che sta a ovest della Valle del Rif, la culla del caffè arabica, di fatto sarà sparito. E cosa possiamo fare? C'è qualcosa che possiamo fare? Ci possiamo recare tutti in massa, genetisti e non, a cercare di fare qualcosa per salvaguardare quella specie? Cosa possiamo fare? Io rientro da un convegno del Sud America, convegno dell'Associazione Scientifica e di Informazione sul Caffè. Possiamo dire che è una conferenza mondiale degli esperti? È una conferenza mondiale di scienziati che si occupano di caffè, è stato trattato questo argomento e a margine di questa conferenza si è riunito anche il World Coffee Research, che è un progetto cooperativo internazionale che tra le sue finalità ha proprio quella di mettere in sicurezza parte di questo materiale. Ma si può? Tecnicamente la cosa è fattibile, ci sono degli aspetti organizzativi che sono tranquillamente risolvibili, gli aspetti scientifici non presentano problemi. Cioè, dal Nel punto caso di del vista... caffè questo non è stato ancora fatto. Scusi, dal punto di vista genetico quindi le conoscenze le abbiamo, qual è quindi il problema? I problemi più grossi sono il fatto che tutto il caffè arabica che oggi è coltivato è parente della stessa pianta e quindi ha una bassissima biodiversità. Il fatto di non avere biodiversità e plasticità non consente alla pianta di di adattarsi ai mutamenti climatici, e quindi anche il caffè che viene oggi coltivato in tutto il mondo, fondamentalmente nella fascia subtropicale, può avere i medesimi problemi dei giacimenti che non sono coltivati ma sono naturali, che stanno in Etiopia. L'altro problema è l'accesso al genoma wild, cosiddetto, quindi quello naturale, che deve passare attraverso la politica e quindi attraverso trattati che possono comportare anche anni di negoziazione. C'è in qualche modo la difficoltà di raggiungere quel punto per poterlo studiare e quindi probabilmente anche diffondere poi questo tipo di coltivazione. Esatto, il problema è mettere a disposizione dei ricercatori questo materiale. Non è un problema quindi di avere, che ne so, delle serre in cui farla crescere. Si può spostare anche da altre parti, però o studiamo come fare questo spostamento o se no le perdiamo. Sì, no, bisogna ovviamente fare dei processi di acclimatamento, di stabilizzazione, ma sono tecniche che gli agronomi conoscono assolutamente e i genetisti oggi iniziano anche a padroneggiare bene. Senta, ma a un convegno mondiale sul caffè ci sono i coffee break? Assolutamente sì, certo. Alberto Liotti non ha resistito a fare questa domanda, anzi praticamente abbiamo fatto questa intervista apposta perché io volevo arrivare qua. Anche particolarmente contesi e saranno anche particolarmente. Senta, però allora alla fine lei qualche speranza ce la dà, insomma si tratta più che altro di un problema politico che cerchiamo di risolvere, si spera di risolvere, ma tecnicamente possiamo essere speranzosi. Assolutamente, tecnicamente possiamo essere speranzosi. Quell'articolo si riferiva a una simulazione nell'ipotesi che nulla venga fatto. Grazie, allora buon lavoro. Buon lavoro, grazie Olivia. A voi, arrivederci. Arrivederci. Buonasera. E cosa arriva a voi adesso? Il traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Una ventina di giorni fa, ma circa 50 anni fa, era il 4 novembre del 1966, molti ascoltatori e ascoltatrici, magari non giovanissimi, ricorderanno che Firenze fu allagata con un'inondazione di portata eccezionale. In queste settimane abbiamo vissuto episodi analoghi in Italia, in diversi punti d'Italia, ma certamente in particolare in queste zone della Toscana. Avremmo potuto parlarvene prima, ma insomma abbiamo voluto aspettare un po' per provare a fare alcune considerazioni su questi problemi, in particolare su questi temi che riguardano le alluvioni. Per parlarne ho qui con me questa sera Fausto Guzzetti. Buonasera Guzzetti. Lei è direttore dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica all'Istituto del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Senta Guzzetti, io vorrei, perché quando avvengono questi fatti naturali piuttosto gravi, nei quali però ci sono dentro delle informazioni di tipo scientifico, tecnico, che hanno un loro valore, vorrei con lei provare a ragionare appunto su alcune cose che possono sembrare strane, perché per esempio già allora, 50 anni fa, si disse che quell'inondazione aveva come una sua componente critica una non cura del territorio, però è 50 anni fa. Vorrei mettere al centro di questa nostra conversazione appunto un po' di riflessioni su questo tema. Per farlo però iniziamo da un bello spettacolo, La guerra grande dell'Arno, è un testo di Francesco Niccolini, un testo teatrale che ha visto impegnati Marco Paolini, che conosciamo per questo tipo di orazioni, Sandro Lombardi e Anna Meacci. È un testo che fa parte di una collana di teatro e scienza diretta da Francesca Magni ed è distribuita da Scienza Express. Poi dopo vi dico, chi fosse interessato, come se lo può procurare. Sentiamo questo primo straccio. A causa di quella mappa che fu per lei tessuta e per altri ancora inspiegabili motivi, anche quell'anno Fiorenza si fece scegliere. Non fu la prima volta. Quando? 50 alluvioni in 600 anni, 25 gravi, 20 gravissime, almeno 6, una per secolo, furibonda, selvaggia. Per l'ironia di cui sono capaci le catastrofi, meglio se in anno doppio. 1177, 1288, 1333, 1844, 1966, così, per capriccio, quando? A novembre, ma può accadere d'ottobre, molto meglio però nel giorno dei morti, no, molto meglio da quando esiste per la festa armata. E qui Paolini ricorda infatti che il 4 novembre era anche, certo non nei secoli ma nei tempi recenti, è la festa delle forze armate. Ecco Guzzetti, che cosa dice qui Paolini? Beh, racconta una storia di inondazioni continue e gravissime. Sì, fa un quadro molto chiaro, molto lucido, quando dice che abbiamo avuto 6 inondazioni catastrofiche, più o meno una per secolo. È assolutamente vero, quindi eventi naturali così intensi, quando piove molto su un bacino di che noi chiamiamo fiume, l'Arno, ma che in realtà è poco più di un torrente. A Firenze, il bacino a monte di Firenze sono circa 4.000-4.500 km quadri, possono portare a fenomeni di inondazione così grandi, questo indipendentemente dal tessuto urbano che poi l'uomo è andato ad insediare nei secoli, certo. È proprio una caratteristica di quel bacino, sta nella nostra abilità, diciamo di uomini e donne che abitano quei territori, di riuscire ad adattarci a questi eventi, che però sono successi e probabilmente continueranno a succedere. Ad accadere. Noi ci siamo sentiti prima di questa intervista, prima di andare in onda, lei mi ha detto che ci sono stati casi con 3.000 morti, quindi con dei... Non nel bacino dell'Arno, ma in altri bacini, come per esempio sul Tevere o in altre regioni d'Italia, ci sono stati eventi molto più catastrofici, ma la stessa piena del 1333, che prima veniva citata proprio da Paolini, pur essendo stata probabilmente di un livello d'acqua inferiore a quella del 1966, ha provocato tantissime vittime, più di quelle che ne abbia provocate quella del 66, ha provocato molti danni. Chiaramente il valore dei danni economici è stato più basso, perché nel tempo il valore delle cose e dei beni è andato ad aumentare, ma il danno è stato forte anche nel 1333 o nel 1844, un altro degli anni doppi di cui parlava Paolini. Quello che dobbiamo ricordare è che nell'alluvione del 1966 ci furono circa 40 vittime, però il dato forse più disastroso è che praticamente per 2 giorni non si vide nessuno, non arrivarono aiuti da nessuna parte. Questo indubbiamente fu drammatico. I fiorentini si trovarono in una situazione assolutamente inconcepibile. Però Guzzetti, allora, quando parliamo invece, e già allora lo si fece, no? Dicendo è una mancanza di cura del territorio. Ora, l'inurbamento in quegli anni era un decimo di quello che abbiamo adesso. Evidentemente, per analizzare che cosa fare, per carità, non stiamo mica dicendo che è tutto logico quello che è avvenuto e quindi è inutile protestare, però evidentemente per analizzare quello che si deve fare bisogna mettere insieme da una parte attenzione certo al territorio, ma forse anche qualche tecnica per rispondere in modo diverso a qualcosa che da quelle parti avviene, come in altre in Italia, avviene storicamente. Assolutamente sì, e sull'Arno qualcosa è stato fatto, per esempio a monte del bacino sono state fatte o riattivate delle cosiddette casse di espansione, delle aree che sono morfologicamente, geologicamente di pertinenza del fiume e che sono adesso lasciate proprio a questa funzione. Quando c'è tanta acqua, l'acqua ha raggiunto un certo livello, l'acqua può esondare all'interno di queste zone dove non ci sono beni rilevanti. Mm. Questo non, sicuramente non basta. Dopo l'alluvione di Firenze negli anni 70 venne alzata, aumentata la luce del Ponte Vecchio, che rappresenta un po' il punto critico. Ancora adesso mi dicono dei colleghi idrologi che se si dovesse verificare una piena esattamente come quella di Firenze, ovvero se a Ponte Vecchio arrivassero 4.000-4.500 metri cubi d'acqua al secondo, perché tanti si stima ne arrivarono, non riuscirebbero dovrebbero passare tutti, ma lì è proprio un problema, come dire, di geometrie. Si può intervenire cercando di laminare le piene. So che per esempio in regione Toscana l'autorità del bacino sta considerando l'utilizzo di alcuni invasi che dovrebbero essere opportunamente modificati. Cosa vuol dire laminare, Guzzetti? Laminare significa semplicemente tenere l'acqua dentro a un invaso durante il periodo di piena, avere un catino da poter riempire quando di acqua ce n'è tanta, per poterlo poi rilasciare con un po' più di calma quando il picco della piena è passato. Però come mai anche allora si parlava di territorio abbandonato e adesso dopo 50 anni si dice la stessa cosa? Allora, è molto difficile da dire, il discorso varia da regione a regione, da area a area all'interno delle regioni. Certo che il fatto che ci sia stato un forte inurbamento della popolazione, in Italia come nel resto del mondo, viviamo tutti molto di più nelle città o nei paesi grandi rispetto a prima, ha portato a un abbandono della campagna, dei boschi, di tutte le aree rurali, che quindi hanno necessariamente un controllo minore. Ma sì, penso anche ad un controllo che non è una manutenzione che non viene fatta per una quantità di motivi. Una sono le risorse economiche, ma non credo che sia solo quello. Pensi ai cantonieri lungo le strade. 50 anni fa o 40 anni fa i cantonieri erano delle persone che giravano per le strade, pulivano le cunette, tappavano i tombini e non li abbiamo più. Non abbiamo più niente di tutto quello, e quando piove, anche se piove solo come pioveva 40 anni fa, adesso abbiamo un problema più serio di prima. Forse lei sta mettendo l'accento sul fatto che ci sono proprio delle opere strutturali e dedicate al problema inondazione che devono essere messe in campo. Sicuramente, nel senso che la soluzione non può venire da, non è semplice, è una soluzione costosa, una soluzione di lungo periodo, non legata ad un intervento solo, da una tipologia di interventi soli. Servono in alcune aree particolari degli interventi cosiddetti appunto strutturali, dove andiamo a costruire qualcosa o a migliorare quello che abbiamo. Serve anche molto intervento non strutturale, che significa una migliore, per esempio, pianificazione urbanistica e territoriale. Fausto Guzzetti, la ringrazio e buon lavoro. Grazie a lei. Chi volesse procurarsi il DVD di questo bello spettacolo lo trova, cercate in rete Scienza Express e La guerra grande dell'Arno, lì lo trovate. Bene, adesso una pausa e poi tocca ad Alessandro Magno. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. L'idea che dopo 2300 anni, Chiara, si possa scoprire la tomba di Alessandro Magno, la trovo esaltante. È un'idea molto affascinante e forse più che un'idea, perché ci sta lavorando il Politecnico di Milano, quindi togliamo diciamo il velo di mistero, non stiamo per affrontare una puntata a modello Voyager, per intenderci. Ecco, sì, chiariamolo. Quindi abbiamo un docente del Politecnico di Milano e tra l'altro, questa è una cosa interessante, è l'unico ad avere in Italia la cattedra di archeoastronomia, perché adesso parleremo della mappa della città di Alessandria d'Egitto, che con tutta probabilità fu costruita basandosi sulla posizione degli astri. Cominciamo. Ma direi, di introdurre Salutiamo il professore. Il nostro ospite. Giulio Magli, intanto buonasera professore. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Buonasera. Cattedra di archeoastronomia. L'archeoastronomia, senz'altro. L'archeoastronomia è scienza giovane, perché è nata negli anni 60, poi ha avuto varie traversie, è diventata diciamo una scienza ufficiale negli ultimi 15 anni. L'idea è studiare le conoscenze astronomiche dei popoli antichi attraverso la loro architettura, quindi guardando i riferimenti, gli allineamenti diciamo tecnicamente astronomici che hanno lasciato in tanti importantissimi monumenti del passato, cominciare dalle piramidi e arrivare fino al Pantheon. Okay. E da lì il vostro studio che avete appena pubblicato proprio sulla mappa, su Alessandria d'Egitto, che appunto sarebbe costruita secondo un piano ben preciso, cioè progettata sull'allineamento di alcuni astri particolari. Sì, è un lavoro in collaborazione con Luisa Ferro, che è la mia collega del Politecnico, e l'idea è di analizzare se ci sono aspetti simbolici, quindi legati al cielo, all'astronomia, nella progettazione dell'impianto urbano di Alessandria, perché Alessandria fu fondata ex novo, si trova tuttora nella zona del delta del Nilo, fu fondata in quel luogo perché Alessandro la voleva così. quindi usando le tecniche appunto dell'arcastronomia si può cercare di capire se sono stati inseriti dei riferimenti astronomici e simbolici. Ricordiamoci che in Egitto la religione era profondamente legata al cielo già da moltissimi anni. Alessandro si rifà alla tradizione egizia. E quindi Alessandria d'Egitto è una città che nasce intorno al 300 avanti Cristo, insomma non è vecchia come le altre sedi come Tebe egiziane. Infatti è città di fondazione di Alessandro. Alessandro è stato divinizzato in Egitto, per cui per esempio nel grande tempio di Luxor c'è la cappella terminale che viene dedicata ad Alessandro. Alessandro si reca all'oracolo di Ammone, si fa sostanzialmente dichiarare divino come era il faraone in Egitto e fonda questa città ex novo. Però nella sua progettazione eredita la cultura sia egizia che anche una cultura in realtà molto enciclopedica, perché anche la conoscenza dei babilonesi eccetera vengono filtrate come verranno poi filtrate nella cultura ellenistica. Quindi Alessandria è un po' il simbolo del potere di Alessandro e della sua divinizzazione. E in particolare mi sembra che la strada principale di Alessandria d'Egitto abbia una posizione molto precisa, un orientamento molto preciso. Sì, Alessandria è concepita come le città greche prima su una pianta ortogonale, cioè su strade che si interzano ad angolo retto. Però c'è una strada principale che oggi chiamiamo canopica che punta al sorgere del sole in un giorno molto preciso dell'anno. E che giorno è? Questo giorno corrisponde alla data di nascita di Alessandro Magno, che è il fondatore della città. Naturalmente bisogna esprimerla dalle fonti, esprimerla nel nostro calendario. Quando lo facciamo, perché nel nostro calendario, che ovviamente non era in uso all'epoca, scopriamo che il sole sorgeva proprio in allineamento con questo asse principale della città. Quindi questo è un segno altamente, diciamo, simbolico, che vi fa pensare che Alessandro effettivamente possa essere, la sua tomba possa essere in Alessandria. Allora, prima di tutto succede una curiosa, interessante coincidenza, cioè che non solo possiamo ricostruire naturalmente com'era il movimento del sole all'epoca, ma anche quello delle stelle. Quello delle stelle dipende molto da un fenomeno fisico semplice che si chiama precessione. Basandoci sulla precessione possiamo ricostruire le stelle all'epoca in cui Alessandria fu costruita. Quando facciamo questo scopriamo che anche una stella molto importante per la regalità all'epoca, che era la stella Regolo della costellazione del Leone, sorgeva in allineamento con l'asse della città. Oggi non lo fa più proprio a causa di questo fenomeno della precessione, ma allora lo faceva. Quindi questo contenuto simbolico ricordo della nascita di Alessandro è ulteriormente rafforzato dal fatto che Alessandro in un certo senso è nato, per una circostanza fortuita per lui, sotto la stella dei re. Quindi questo conferma secondo noi molto chiaramente il legame simbolico della città. Allora, a questo punto ci aspettiamo che la tomba del fondatore, o perlomeno il cenotafio, cioè la tomba simbolica del fondatore, si trovi ad Alessandria e si trovi in accordo con il progetto della città. Ovviamente lei adesso non ci dirà esattamente dove, però insomma ha qualche indizio. Ci dica solo se ha degli indizi. Ecco, non dico. Sì, li abbiamo questi indizi, perché ci sono città greche, che quindi sono la tradizione, diciamo, è lo stesso ambiente culturale, la tradizione precedente ad Alessandro, in cui conosciamo la posizione rispetto all'impianto urbano della tomba, o io preferisco dire il cenotafio, nel senso che non mi aspetto di trovare la salma di Alessandro. Sì. Quindi una tomba simbolica che ha una dislocazione molto precisa rispetto all'impianto urbano della città. E l'impianto urbano della città a sua volta è legato all'astronomia. Senta, ma le chiedo una cosa però: quando Alessandro muore intorno ai 31 anni, no? Piuttosto giovane, oddio, per allora 30 anni non erano pochi, e lui è a capo, insomma, di un vastissimo impero, perché poi si è preso tutto l'impero persiano e quindi arriva quasi dall'India. Quindi è un personaggio, come dire, di dimensioni enormi. Come mai una sua tomba non è perlomeno come una piramide, cioè, o anche un cenotafio, come dice lei? Perché non c'è un segno così grande, tanto grande, insomma, equivalente, analogo a quello che è il personaggio, insomma? O nessuno ci aveva mai pensato prima che fosse lì, anche questo? Dunque, domanda interessante, la risposta è questa. Prima di tutto sappiamo che la tomba di Alessandro ad Alessandria fu monumentalizzata, fu fatta diventare forse un grande tumulo o qualcosa del genere sotto i Tolomei, cioè sotto i suoi successori. Questa tomba è stata visitata da molti imperatori romani, compreso Augusto, quindi sappiamo molto bene che fu, c'era e che fu monumentalizzata, anche se non sappiamo ancora dov'è. Ma conosciamo sulla tomba specifica, cioè su quella che fu progettata per Alessandro, conosciamo la tomba del padre, perché la tomba del padre, con una fantastica scoperta archeologica, Filippo II, la tomba di Filippo II è stata scoperta a Vergina, in Macedonia. I re erano re macedoni, Alessandro e Filippo II prima. E questa tomba è molto bella, ha delle meravigliosi affreschi, ma non ha dimensioni monumentali. La tomba non di è Filippo quella. II. Quindi, no, questa è la tomba del padre. Quindi io mi aspetterei che la tomba di Alessandro, anche se ad Alessandria, quindi in Egitto, sia comunque nello stile delle tombe macedoni, che sono molto elaborate, con splendide decorazioni in marmo, ori, ovunque, eccetera, ma non sono particolarmente significative dal punto di vista monumentale. Adesso però le chiedo una cosa, si dice spesso, per esempio parlando di Roma, che se si potessero buttare giù, cose impossibili, i palazzi del Cinquecento barocchi, probabilmente in un buco troveremmo Traiano che dice «Oh, finalmente siete arrivati», cioè c'è l'ira di Dio lì sotto, cosa che non si può fare. Lì cosa succede? Cioè, come si fa a cercarla? Perché magari è sotto un quartiere dove ci sono 50.000 persone, no? O potreste essere più fortunati? Guardi, l'Egitto è, per chi lavora da 15 anni e più in Egitto come me, l'Egitto è il luogo delle sorprese. Quindi forse il 90% dell'Egitto è ancora sotto le sabbie. Io personalmente sto cercando una piramide a Saqqara, perché ne manca una della lista reali, quindi so per esperienza diretta che è il luogo delle sorprese. Magari siamo fortunati e succede come è successo pochi mesi fa, che in una cantina di un quartiere popolatissimo del Cairo, che si trova a Eliopoli, vicino all'aeroporto, è stato trovato un tempio di Ramesse II. Ma pensa tu. Quindi, speriamo siate fortunati. Non perdiamo le speranze. No, assolutamente. Ma quali sono gli strumenti che si usano per cercare questo tipo di monumenti? Che, cioè, insomma, immaginiamo non di dimensioni ridotte. No, per cercarli teoricamente si usa l'archeologia, cioè si cerca di fare delle, diciamo, predizioni, ma predizioni nel senso scientifico, nel senso certo. Che qualunque scienza predice perché poi vuole essere verificata. Invece allora, praticamente? Praticamente se siamo sotto è un disastro, se invece siamo a Saqqara nel deserto è un disastro anche, perché sono spazi sconfinati, ma si possono usare strumenti tipo il LIDAR, il georadar, cioè sono strumenti non invasivi che mostrano l'esistenza di strutture in pietra senza bisogno di scavare. Cioè si sparano delle onde e tornando indietro, cioè con mezzo, sistemi radar appunto, praticamente. Sistemi radar, sì, sono delle onde sostanzialmente sonore. Che vanno a 2-3 metri, 4 metri. Tornando indietro si capisce in modo diverso dalle strutture in pietra, se c'è qualcosa sotto. Esattamente. Va bene, grazie professor Magli, è inutile grazie dirle in bocca al lupo, insomma, ci faccia sapere. Grazie, senz'altro. Buon lavoro. Ai tempi di Alessandro si dava alla movimentazione dei carri sulle strade, adesso noi vediamo cosa combinano le automobili. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Oh, sono particolarmente lieto di annunciarvi che quella pazza di Chiara Albicocco, che con me poco fa ha discusso della tomba di Alessandro Magno, ora vi racconterà anche in questa puntata un'altra strana storia di animali, con fisioterapie per cincillà e conigli, con delle rotelline provvisorie, naturalmente è una fisioterapia, no? Cosa devo dirvi? Sentiamola. La clinica degli animali. Settimana vi raccontiamo la storia di due piccoli mammiferi che sono stati davvero fortunati. Vi raccontiamo del cincilla mazinga e del coniglio Pierino, in compagnia della dottoressa Germana Scerbanenko, che è medico veterinario che si occupa appunto di piccoli mammiferi esotici e non, ed è qui con noi. Dottoressa, partiamo raccontandovi la storia della cincilla mazinga, che purtroppo è caduta dal primo piano. Mi piace raccontare questa storia dove la cincilla è stata trovata trovata caduta dal primo piano dal portinaio, proprio nel cortile di casa, il quale ha avvisato il proprietario: guardi, questo deve essere un suo cincillà. È sceso e ha preso questa cincillà sul pavimento, proprio con le gambine completamente immobili, come l'ho vista io. Allora, abbiamo fatto una visita, diciamo, per capire se era possibile il recupero di questo animale, perché questo è importante, se no in alcuni casi la lesione è incompatibile con la vita. Abbiamo visto che con la visita potevamo tentare di recuperarla, quindi sono state fatte le terapie per questo caso. È una terapia medica, non è stata operata, abbiamo usato dei cortisonici e una terapia intesa come movimento passivo fatto alla cincilla, cioè prendevo le zampine e gli facevo quotidianamente degli esercizi di flessione, di estensione. Faceva una sorta di ginnastica, di fisioterapia come facciamo noi umani. Infatti, nonostante la cincilla sia 3-4 etti di peso e abbia dei muscoletti invisibili, però per evitare l'atrofia delle zampine abbiamo continuato questa fisioterapia, diciamo, all'animale, oltre a delle cure molto importanti per l'igiene, perché non poteva fare l'urina in maniera corretta e quindi era spesso impregnata di urina, considerando il mantello del cincillà, che è bellissimo e si impregna in una maniera impressionante, e quindi un po' di cure di questo tipo, non immediatamente ovviamente, ci sono voluti circa 2 mesi se non di più, la cincillà ha ripreso veramente perfettamente a saltare col suo compagno. Ecco, abbiamo detto che è stato fortunato perché un animale di quelle piccole dimensioni, adesso magari le chiediamo agli ascoltatori che non conoscono la specie di descrivercela brevemente, comunque una piccola cavia, quindi quelle piccole dimensioni da un'altezza così elevata, ecco, solitamente purtroppo perdono la vita. Invece in questo caso siete riusciti, anche se appunto un animale di piccole dimensioni, a recuperare la mobilità degli arti posteriori e quindi a restituirgli la vita normale. Infatti sono veramente animali che sono fortunati quando sopravvivono, perché una caduta da un balcone è veramente mortale, l'animale muore immediatamente o ha delle lesioni talmente gravi incompatibili con la vita. Calcoliamo che un cincillà può pesare 3-6 etti, quindi neanche sotto mezzo chilo, ed ha delle ossa fragilissimi, paragonabili a un uccello, come se noi avessimo un piccione di piccola taglia, quindi un volo da un primo piano è veramente fatale per questi animali. Se ci può brevemente descrivere come sono fatti per chi non ne ha familiarità. Ecco, il cincillà è come una specie, diciamo, di criceto più grosso, con delle zampe posteriori molto lunghe e sottili, con le quali proprio ha un'andatura saltellante velocissima, è capace di schizzare in una stanza e noi non riusciamo a prenderlo, quindi è un animale proprio attivissimo, leggerissimo, però con dei muscoli veramente minimi, ecco. Ed è molto, diciamo, ricercato per il mantello, il proprio pelo è piuttosto prezioso, lo sappiamo, nell'industria delle pellicce è molto conosciuto. Infatti ha questo mantello, fra l'altro, foltissimo, che, ecco, nel caso di questa cincilla che aveva le lesioni era un vero problema, perché si è completamente rovinato con le urine, aveva avuto una micosi molto imponente, però è stata, diciamo, superata anche questa. Ecco, adesso parliamo dell'altro fortunato, del coniglio Pierino, che purtroppo anche lui è andato incontro ad un incidente con, come dire, il suo compagno di giochi, il cane che lo stesso proprietario possedeva, e anche qui un forte trauma, una forte lesione ha portato appunto a una paralisi degli arti posteriori. Anche qui una sorta di fisioterapia avete messo in atto. Questo coniglio è stato proprio addentato alla schiena dal cane di casa. Il proprietario l'ha portato subito, questo coniglio sempre trascinava gli arti, è stato sottoposto, oltre alla visita neurologica, sempre a una TAC in anestesia, e poi è stato proprio ha fatto un intervento per curare le lesioni che erano state provocate dal morso. In seguito, per aiutarlo a riprendere l'attività delle zampe, è stato costruito una specie di carrellino con delle rotelle di pattini montate su un supporto, il quale è stato messo sotto l'addome del coniglio. Il coniglio veniva fatto camminare su un prato, in modo che le zampe avessero anche una presa sul morbido, e anche questo, parliamo di settimane e di molti molta pazienza da parte del proprietario e nostra, e ha ripreso la normalità del movimento. Questo tipo di supporto era fatto appunto per evitare che trascinasse le zampe posteriori, proprio un supporto alla fisioterapia, e vi siete dovuti un po' improvvisare falegnami e ferramenta per riuscire a farlo muovere. Non è uno strumento che si trova in commercio. No, diciamo che dato anche il peso del coniglio in genere è sotto i 2 kg, e poi ha proprio queste zampe anche lui che usa per il salto, quindi è problematico aiutarlo per evitare che strascini le zampe, che si formino piaghe, che anche lì l'addome proprio striscia per terra. Questo carrellino, usato anche soprattutto su un prato, ha favorito molto la ripresa del coniglio, insieme sempre a questi movimenti passivi fatti proprio manualmente dal veterinario per evitare l'atrofia degli arti posteriori. Sì, proprio una sorta di fisioterapia. E sempre nel contesto appunto di questo caso del coniglio Pierino, se possiamo spendere 2 parole sul fatto della convivenza tra specie diverse, in questo caso erano un cane e un coniglio, che vivevano in maniera pacifica fino a quel giorno. Infatti l'idea della gente, diciamo, è che gli animali stanno tutti bene insieme, forse vista dai film di cartoni animati. Purtroppo il cane considera una preda soprattutto animali che si muovono veloci come il cincillà, il coniglio, ma anche la cavia, che poi non hanno nessun mezzo di difesa, quindi il cane spesso morde o assale. A volte anche mi capitano animali, conigli morti di paura inseguiti dal cane, perché anche senza lesioni obiettive, però la paura è forte, sono animali che vengono predati. Ecco, le storie che abbiamo raccontato oggi di Mazinga e Pierino, diciamo che sono storie di animali fortunati, l'abbiamo detto anche all'inizio, però quello che ci piace raccontare, insomma, è che c'è una possibilità, nel senso che anche questi animali di piccole dimensioni, di piccola taglia, esotici e non, riescono in qualche modo a recuperare, perché la medicina da questo punto di vista c'è anche per loro. Infatti mi spiace quando si pensa non si può fare niente, tanto è un coniglio. Ci sono molti esami che si possono fare, molte terapie, si possono fare anestesie con radiografie, TAC, interventi di vario tipo, chirurgici, sia ortopedici che all'apparato gastroenterico, che di tipo ostetrico. Ci sono molte cose come per cani e gatti. Va bene, grazie dottoressa, e noi ci sentiamo la prossima settimana con un'altra storia. Vi stiamo proponendo delle storie di innovazione, delle start-up, e questa settimana facciamo questa domanda. Non ci si potrebbe fare dei circuiti in casa o in ufficio usando delle stampanti? Ho la sensazione che stia diventando possibile, e da qui inizio con Alessandro Chiolerio. Buonasera Chiolerio. Allora, lei qui ci racconta dei lavori, dei brevetti, delle attività della Politronica, che è una startup che nasce in area Politecnico Torino. Adesso lei sta lavorando anche all'IIT di Genova, che è un istituto, insomma, di eccellenza italiano. Allora, veniamo a questa cosa che dicevo io prima, proviamo a chiarirla. Vuol dire che non è ancora, diciamo, definita completamente la Tecnicadesis, però per farci capire da tutti potremmo arrivare ad avere in una stampante sostanzialmente normale, no? Sì. Che abbiamo in casa, che abbiamo in un ufficio, la possibilità di stampare su dei fogli di carta, su dei fogli di plastica, forse anche dei tessuti, mi dica se sbaglio, un circuito, che vuol dire che i circuiti, insomma, lo sappiamo tutti ormai, no? Sono quelle robe che sembrano un po' dei labirinti, spesso sono dorati di quel colore oggi, no? Ma insomma possono avere la colorazione, non è certo il dato importante, sono quei tanti fili, no? Quei serpentoni che si intrecciano. Possiamo pensare di avere, ecco, ma il segreto dov'è? È in un inchiostro. Il punto critico è sicuramente l'inchiostro. Nel nostro caso quello che abbiamo fatto è stato sviluppare degli inchiostri che contengono argento, quindi non l'oro piuttosto che il rame che si utilizzano di solito per fare i circuiti stampati tradizionali, e renderlo nanostrutturato. Questo lavoro consente di accedere a tutta una serie di proprietà interessanti, soprattutto nella fase di post stampa, quindi successivamente all'aver realizzato la traccia serpentina complicata finché si vuole, il materiale deve essere trattato termicamente per farlo diventare conduttivo, quindi il fatto che ci siano delle nanoparticelle ci consente di abbassare tantissimo la temperatura di questo trattamento termico, e e di renderlo possibile anche su materiali poveri, certo. Se vogliamo, quindi appunto fogli di plastica con delle caratteristiche non troppo avanzate e con una certa economicità. La carta sarebbe un bell'obiettivo per il futuro, senz'altro. Però insomma stiamo cercando di dare un'idea generale di una direzione che si sta prendendo, e qui il fatto è che l'inchiostro, per come lo conosciamo noi normalmente, vabbè, insomma, disegna delle cose e si ferma lì. Qui invece noi avremmo la possibilità di avere un disegno che però, messo nella fotocopiatrice, viene caricato di un inchiostro che è conduttore, quindi abbiamo un circuito che può svolgere una certa funzione, come ormai sono milioni le funzioni che fanno i circuiti. Esatto, e poi successivamente gli si può ad esempio saldare un componente tradizionale come quelli che ci sono, insomma, in commercio, e quindi renderlo molto versatile. Il che vuol dire che proprio sul piano della produzione, in tutto un artigianato abbastanza sofisticato elettronico che sta avanzando, si potrà facilmente costruire in casa a costi molto bassi degli strumenti che invece adesso richiedono una strumentazione non così agevole dal punto di vista dei costi. È costosa, sì, senz'altro. Diciamo che la tendenza è proprio quella di fare a casa, pure in un laboratorietto condiviso, oggetti di una certa complessità. L'inchiostro che abbiamo sviluppato e che stiamo cercando di rendere compatibile anche su stampanti commerciali è sicuramente un prodotto molto versatile, quindi l'obiettivo poi è renderlo commerciale e magari trovarlo in un'edicola dove la persona appassionata di circuiti elettronici possa acquistarlo, montarlo sulla sua stampante a casa o in ufficio e realizzarsi cose che invece fino a poco tempo fa richiedevano attrezzature costose. Politronica è la startup, e dico però ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che, andando al nostro sito www.mebiusonline.eu, avranno proprio in nome una sezione nella quale stiamo seguendo tutte queste startup e troveranno anche la Politronica. Grazie Alessandro Chiolerio e buon lavoro. Grazie, buonasera a tutti. Si avvicina Natale, io vi preparo l'idea che avremo un'intera puntata dedicata alle risposte alle vostre domande di scienza. Per farcene, ecco qui, mebius@radio24.it, questa è la mail, oppure Mebius Scienza su Facebook, oppure mebius_ vuol dire il trattino basso, online su Twitter. C'è anche la posta, oggi ci è arrivato pure un fax, però non so dirvi come. Buona settimana a tutti e a tutte.